Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Allora, siamo qui in studio con i musicisti. Abbiamo appena ascoltato questo brano di Anthony and the Johnsons e diamo il benvenuto a Giancarlo Onorato e alla sua band. Grazie, buonasera a tutti. Benvenuti a tutti. Ha un nome la band o è semplicemente... Si chiama Onorato come me. Ah, perfetto. Allora, abbiamo qui in studio i musicisti equipaggiati di tastiere, basso, chitarra, violino, quindi si prospetta una sonorità molto, molto ricca e quindi molto vicina forse anche agli arrangiamenti del disco, quando solitamente i musicisti che vengono qua viaggiano leggeri sì. E usano di solito solo la chitarra acustica, un paio di chitarre acustiche, perché è molto più interessante questa situazione. E, Giancarlo, tu sei qui per presentare naturalmente il tuo nuovo album. Noi adesso cominceremo così a introdurvi con un pezzo da questo disco, che è proprio il brano di apertura, si intitola Sasha. Vuoi dire qualcosa su questa canzone magari, o l'ascoltiamo e lasciamo? È una canzone che sostanzialmente illustra un momento di liberazione, così, di totale abbandono, quindi riguarda chiunque, riguarda l'abbandono fisico, l'abbandono mentale, sentimentale, emozionale. Quindi la definirei una canzone dell'abbandono e della liquidità. Allora ce l'ascoltiamo, ho sentito la Sasha. Sasha si libera, e i filamenti come anemoni fluttuano giù dalle sue gonadi. Si origina il mondo, il tempo si liquefa nella beltà. Come sarà l'ingresso candido, il getto libero d'inchiostro tenue? Dove sarà il pianeta fertile, campo di neve? Demoni fioccano giù dalle sue gonadi, si modula il tempo e tutto si annebula nella realtà. L'ingresso candido, la porta soffice dall'ineffabile. Dove sarà il regno fragile, campo di neve da sporcare di sé, da sporcare di sé, da sporcare di sé. L'onda del rock. Allora, abbiamo ascoltato questo brano che vi rammento si intitola Sasha, e la prima domanda che voglio farti, Giancarlo, penso te la facciano tutti: 6 anni da un disco all'altro, so che fai anche tante altre cose, ma come mai un tempo così lungo? Hai bisogno di avere un'ispirazione particolare per fare un disco, o hai altre cose per la testa? Dunque sì, 6 anni tra un disco e l'altro possono in effetti sembrare molti, ma credo sembrino molti oggi, che si produce tutto molto più velocemente, ma non necessariamente meglio. In realtà su questa distanza tra un disco e l'altro, è sicuramente colmata in parte dalle altre attività che ho. Ricordo che 3 anni fa ho pubblicato un romanzo. Un romanzo è una cosa che impegna, richiede tempo, eccetera. Ma un disco non richiede meno lavoro. Quindi le idee sono molte, il problema è riuscire a distillarle, riuscire a metterle a fuoco nel modo giusto, e quindi a me serve molto tempo per elaborarle più che per produrle. E, dopodiché va detto che se i dischi fossero prodotti con meno assiduità, se ci fosse meno urgenza di uscire sul mercato, forse ci sarebbe un po' più di spazio e attenzione per tutti. Un tempo, 5 anni tra un disco e un altro era normale, era un lasso di tempo abbastanza normale, perché in mezzo c'era molta musica, molta vita, molti concerti, molte tournée. Oggi quello che fa sembrare troppo largo lo distacco di tempo tra un disco e l'altro di onorato è sicuramente il fatto che moltissimi cercano di produrre un disco all'anno, perché un disco diventa un biglietto da visita per suonare, per fare i concerti. È uno stress, un'ansia che io non ho mai avuto. Quindi, al di là del fatto che io sono molto meticoloso, c'è anche una differenza tra il mio modo di vivere la musica e quello di altri, penso. Quindi non hai paura che i tuoi fan si dimentichino di te per col passare del tempo? Direi che anche questa è un'ansia che non sento, ovvero non credo sia importante ragionare così, è più importante concentrarsi su quello che si ha da dire. E poi se sono 3 o 4 o 5 dipende un po' da come si muove la tua vita. Però no, io credo che se semini bene, se produci con serietà, non ci si dimentica. Se poi ci si dimentica vuol dire che non c'era stata adeguata attenzione. Dimenticabile, diciamo. Vuol dire che era dimenticabile, allora è un po' più triste. Sì, che avevo proprio notato questa distanza di 6 anni anche col disco ancora precedente, quindi 3 dischi nell'arco di 12 anni, insomma, uno spazio di tempo importante, ecco, lungo. I dischi sono pronti, anche gli altri, solo che bisogna appunto elaborarli. Probabilmente ci sarà anche, in effetti, dal momento in cui prendi la mano sul fare musica e si concentri la tua attenzione su quello, si riducono un po' le distanze. Però va detto che questo disco è un disco prodotto, per quello che è stata la sua elaborazione, in realtà molto fitta. Sono 3 anni di fitta elaborazione, quindi è un tempo giusto. Probabilmente il prossimo non sarà così distante, però bisogna abituarsi, credo, all'idea che un disco dovrebbe essere un'opera che, per meritare il rispetto e l'attenzione di chi l'acquista o di chi l'ascolta, di chi la fruisce, deve essere fatta con un certo criterio, una certa serietà. Io questo, poi con tutti i musicisti che mi hanno accompagnato, cerco di mettercela. Sì, anche viene da chiedersi, in questo spazio di tempo hai sempre scritto canzoni comunque, o tieni solo da parte delle idee per poi ripescarle magari al momento della nascita o dell'ideazione del disco? Dunque, guarda, io a queste domande così giustamente insistenti sulla distanza tra un disco e l'altro, sono poi costretto a dire che in 6 anni io ho prodotto 3 dischi di altri, il mio disco, ho scritto e pubblicato un romanzo, ho fatto la direzione artistica di 10 festival. Credo che basta. Ah, beh, sì, che tu fossi molto impegnato, l'ho visto dal sito. È che proprio mi chiedevo se in quest'arco di tempo non ti sia capitato, che so, anche un mese dopo aver fatto il disco precedente, un'idea di una canzone la metti giù, cosa fai? Non ti viene? O... Dunque, le idee ti seguono ovunque. È esattamente questo che... Si annotano, si annotano, si ferma l'idea e poi la si va a riprendere e a sviluppare. Però sì, le idee ci sono. Ma a me capita che se lavoro con la musica, le idee musicali nascono. Se mi sto concentrando su uno scritto, su un romanzo, su un argomento di quel tipo, produco molto in quel senso. Quindi ho imparato a... Era proprio questo attenzione. Che ero curioso di capire, perché avendo visto che fai tante cose, no? Mi pare, come dire, volevo capire se nella tua testa c'è come una specie di brodo primordiale in cui stanno insieme quadri, idee, sì. Idee di scritti, musiche, eccetera, oppure se sei uno di quelli meticolosi che dicono ok, adesso voglio concentrarmi su una cosa. Allora, le cose stanno esattamente così. Nella tua testa vaga tutto insieme, non c'è differenza tra un libro, un disco, della musica, le canzoni, qualunque cosa riguardi la tua creatività. Dopodiché devi imparare a essere disciplinato e quindi a prestare attenzione per un certo periodo soltanto a una cosa, altrimenti non puoi essere all'altezza di quel compito, si disperde troppo. Io ho impiegato un po' di tempo a imparare questa cosa e in effetti all'inizio facevo istintivamente molte cose, ma disperdendomi. Adesso sono un po' più disciplinato, però bisogna immaginare la mia testa, così come casa mia, è una bottega da artigiano in cui ci sono tanti anfratti in cui succede qualche cosa. A volte succedono anche contemporaneamente, perché possono esserci dei punti di contatto tra diverse cose. Però diciamo che è qualcosa che succede, che accade tutto in maniera molto naturale, non ricercata. E penso che la meticolosità con cui produco e la scarsa frequenza di pubblicazione dovrebbe attestare proprio questo, cioè che ogni idea viene assegnata al proprio tempo. Perfetto, era quello che ero curioso di sapere, perché a volte parlo con dei musicisti che fanno solo i musicisti e ciononostante dicono, sai, a volte faccio fatica a concentrarmi su un solo disco, su un solo progetto, e sono dispersivo e fanno solo una cosa, per cui è un po' più impegnativo, diciamo, quello che fai tu. E direi, prima che cominciate a suonare, se puoi introdurre, certo, i tuoi musicisti doverosamente. Allora, sono con me questa sera, come da qualche mese a questa parte, stiamo preparando e allestendo questo tour promozionale: Andrea Cavalleri al basso, Fidel Fogaroli al pianoforte e Stefano Zegni al violino e voce. Benissimo, allora adesso li ascolteremo. Cosa ci suonate? Facciamo L'illusione di salvezza. Maria, Maria, Maria, Maria, ragioni. È quel passo che può avere. Canzone bellissima che ci hanno suonato qui dal vivo nei nostri studi Giancarlo Onorato e la sua band. Una canzone molto, molto suggestiva e non so, anche di mi fa venire in mente la nostalgia per qualcosa, proprio dal punto di vista musicale. Non so perché è così un'immagine che mi torna automaticamente in testa senza probabilmente una ragione vera e propria. Mi piace questa cosa, mi piace perché una canzone anche non è nostalgica, ma promuove, produce un sentimento che viene dal passato e bene, molto bene. Tra l'altro Illusione di salvezza è un brano che parla comunque di una nostalgia comunque, cioè della nostalgia di ritrovare se stessi anche in un gesto disperato, estremo, laddove c'è vittima e carnefice, i ruoli si scambiano continuamente e non è comprensibile facilmente quale sia chi perde e chi vince. Entrambi vivono un'illusione di salvezza ed è sempre un desiderio di qualcosa di lontano che ci viene a cercare nella malattia o ci viene a cercare anche nella salvezza, nel bene. Comunque è qualcosa che viene da lontano. Un'altra cosa sul disco, tu sei un pittore, però non usi la copertina del disco, non hai messo. Johnny Mitchell l'ha fatto molte volte, ad esempio, ma altri musicisti hanno la passione della pittura, mi viene in mente anche David Bowie, per dire uno. Però qualcuno direbbe Ligabue per fare una battuta cretina. Però non hai usato un tuo quadro, non so, perché vuoi tenere separate le due cose? Sì, perché intanto più che un pittore credo di essere un visionario che ha così ogni tanto l'urgenza di mettere anche in forma così visuale, visiva. Ma no, sempre per quello che dicevamo prima, per cercare di distinguere i vari ambiti, io penso che la musica sia immaginifica già abbastanza di per sé, no? Così come abbiamo sottratto i testi da questo disco. Anche le immagini non devono per forza imporre una lettura. Io ascoltando una canzone vedo delle immagini, ho delle visioni, vedo delle scene, delle situazioni. E se la musica sa essere questo, basta, è sufficiente. Poi la pittura, per quanto mi riguarda, è appunto un tentativo disperato di fermare alcune immagini, ma non, bontà di chi mi definisce un pittore. Io credo di essere semplicemente uno che ha il coraggio e anche l'arroganza di cimentarsi un po' in tutte le discipline che lo solletichino, che lo stimolino. Ecco, io invito magari i nostri ascoltatori a guardare sul tuo sito, che c'è una scelta appunto di quadri, perché altrimenti questo che sto per chiederti potrebbe non aver molto senso. Vedendo i quadri, ascoltando la tua musica, ho l'impressione che tu metta nei quadri delle emozioni molto più definite, diciamo, molto più anche violente, se non vogliamo, rispetto alla musica, come se i quadri fossero una cosa più istintiva e la musica invece, questa naturalmente è una mia impressione, poi tu mi confermerai se sto andando fuori dal seminato, la musica tua mi sembra molto meditata, i quadri invece mi sembrano molto più uno sfogo, un voler esprimersi in maniera più diretta, non so se... No, è corretto perché in realtà se ci si pensa... chiunque, cioè noi tutti, chiunque affronti sia in maniera elaborata o in maniera istintiva il segno, quindi la pittura, il disegno, comunque si mette a tracciare e lavora con la parte più primigenia, più primitiva della... I bambini sono dei grandissimi artisti da questo punto di vista, è una forza incredibile perché c'è un rapporto diretto tra l'ideazione e la realizzazione. Anche se è semplificato, il disegno di un bambino è completo sotto tutti i punti di vista. Quindi è chiaro che il dipinto richiama sempre una dimensione più appunto primordiale. E invece la musica attinge ad altre dimensioni, perché la musica comunque mette in un rapporto più profondo con te stesso, ma però con una parte più sensibile, più... che aspira di più all'alto. In mezzo c'è sta, secondo me, la letteratura, che comunque è una dimensione in cui tu hai sì il ricorso a quelle che sono forme di automatismo creativo, ma hai la possibilità sempre di tornarci, di elaborare e di costruire. Quindi la letteratura direi che è un'architettura fatta su delle cose, su degli spunti molto istintivi, molto intuitivi, ecco, un'architettura delle intuizioni, quindi rielaborata dopo, ma vissuta all'inizio di getto, eccetera. La pittura, al momento che il segno è tracciato, è portata avanti una trama, quella è, mentre la fai ti rivela quello che stai facendo e alla fine capisci chi sei, cosa hai fatto. Mentre la musica sta proprio, credo, nella sua forma, e la creatività, credo, nella sua forma magnificata. Bello, bella questa cosa, me la scrivo. Ci ascoltiamo adesso un altro pezzo dall'album, un pezzo di cui non mi ricordo il titolo perché non ho il disco qua sotto mano. Comunque intanto lo ascoltiamo, poi ne parliamo. Celle schioccanti, si va avanti, al carnevale dei morti, la bocca piena di schiuma, si urla chi vuol sentire, il tempo sta per finire, il tempo sta per finire. Il carnevale dei morti, io l'ho voluto guardare, hanno travolto schianto d'ossa e frastuono di fanfare. Mi hanno coperto le guance con foglie di giornale, le fluttuazioni di idee per portarmi a dialogare. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Rock Wave. L'onda del rock. Allora, il titolo del brano era Il Carnevale dei Morti, è anche uno dei pezzi più elettrici di questo disco, insomma, uno dei più tesi. Prima appunto dicevi la differenza tra musica, direi che una differenza fondamentale è anche il fatto che la musica, almeno per farla così, è un lavoro di gruppo. Sì. Perché vedo, insomma, il disco è chiaramente un disco tuo, la produzione artistica ed esecutiva, quindi un controllo totale sul programma, però ci sono molti collaboratori e immagino che siano importanti, insomma. Anche questo sì, è molto importante. E bisogna sempre ricordarsi che la musica è un'espressione condivisa, corale, si fa sempre insieme. Sono rarissimi i casi in cui il compositore, il musicista è da solo con la propria opera e presenta il frutto soltanto del proprio pensiero. Quasi sempre, comunque nella stragrande maggioranza dei casi, tra il momento in cui c'è l'intuizione e la composizione, al momento in cui c'è l'elaborazione, intervengono, cambia molto perché interviene il lavoro dei collaboratori, degli altri, quindi creatività, mentalità, sensibilità, cultura, sono tutte cose che riecheggiano in quello che fai. Ogni mio disco ha il mio nome, però è inevitabilmente il frutto di un lavoro di insieme. Questo disco lo dice particolarmente, infatti ho scelto la parte più, secondo me, significativa del mio nome, ho scelto di chiamarmi Onorato, anche per spostare un po' meno l'attenzione soltanto dal singolo, ma pensare all'opera intanto e sforzarsi di pensare che un'opera appunto è un lavoro collettivo, un lavoro corale. Quindi sì, è molto importante. E il disco si intitola Sangue Bianco, è un'immagine un po' strana questa, perché c'è sangue blu, va bene, che sarebbe stato banale indubbiamente, ma questa immagine del sangue bianco come ti è nata? I temi del disco sono questi, sono da una parte, cioè la partenza dalla propria fisicità, quindi da un dato biologico, materico, per sporgersi verso qualcosa che materico non è e non ci, apparentemente non ci riguarda più, ma in realtà ci riguarda, è come. E quindi nel tentativo di fare una sintesi efficace, semplice, tra questi due sguardi, quello che parte dalla carne, e dal sangue, quindi, per arrivare a quello che carne non è più, ma chissà, noi siamo proiettati verso un indefinito che potrebbe essere un indefinito nulla oppure una totalità. Per raggiungere questi due concetti, io ho usato il termine del concetto dell'idea del sangue insieme a quella del bianco, che dà un'idea di appunto totalità, di complessità, si vuole anche di nulla, ma anche di totalità dei mondi. Era molto difficile riuscire a rendere bene queste due cose, mi sembrava che questo titolo potesse indurre a fare questo ragionamento, comunque desse un indizio di questo tipo. Bene, allora adesso andiamo con un altro pezzo dal vivo, ci puoi dire di che canzone si tratta? Il brano è Il Tuo Venire ed è un viaggio all'interno appunto della fisicità propria e altrui. Il Tuo Venire. Giancarlo Onorato dal vivo dagli studi di Blu Radio Veneto. Buon ascolto a tutti. Passo a ripasso, la lingua gentile sulla ferita. Immaginando la colma di bellezza traboccata. Fonte segreta, bocca di nulla, dimenticato. Invasore desiderato, io il violatore che abita l'invisibile, per benedire il mistero suave ed osceno dentro. respiro che occorre caricare, scaricare, fardello di memoria che ci vuole reinventare. Un vomitato di stelle feroci e dolcissime a amare, ondata superiore che ci viene a cancellare. Ho il vuoto interiore, ma intorno un gran silenzio. Notte di luce, sangue bianco, sfinimento. Nell'altare sommerso del tuo venire, da cui farsi generare, di cui fare imbrattare, e che dona il sonno buono in tutta la sua estensione. Veramente, non applaudo perché da solo farebbe un po' ridere come applauso. Non usiamo quelli preregistrati come in televisione, anche se ci sarebbe stato bene, insomma. Ho qui in mano il disco, il CD. Ci sono a occhio 25 musicisti diversi che suonano, quindi una ricchezza. Tra l'altro, molti di questi suonano parecchi strumenti, a cominciare da te, che vedo che insomma. Suoni praticamente di tutto, quindi una grande ricchezza di strumentazione, però degli arrangiamenti molto equilibrati. Io non ho sentito in nessun pezzo una cacciara, ecco, perché a volte quando si hanno tanti musicisti, tanti strumenti, c'è il rischio di cascare, diciamo, in quella tentazione: c'ho tanta roba, la butto tutta dentro. Quindi anche come produttore devi esserti È un po' come impegnato. Cucinare con tanti ingredienti, metti dentro tutto, ma poi devi fare una grande selezione, no? Bisogna sporcare tutto e poi sistemare gradualmente finché non arriva la formula, non arriva a essere quella giusta. Comunque, in effetti, la sintesi e la sottrazione sono davvero elementi importanti da tenere presente, perché una canzone come siamo abituati a considerarla noi, nel pop, nel rock o comunque in queste dimensioni, non ha nulla, se fatta seriamente, non ha nulla di diverso e differente da una composizione molto più articolata, eccetera. Quindi ogni elemento ha una sua collocazione precisa e deve stare lì, non più in alto, non più in basso. Come in un'orchestra, la distribuzione degli elementi è molto precisa, importante. Quindi anche all'interno delle canzoni tutti gli ingredienti che ci sono devono essere misurati bene. È proprio un problema di... proprio un fattore di alta cucina. E notavo qui usate il violino, usa Stefano, mi pare. Stefano, sì. Il violino anche in maniera, come dire, anticonvenzionale, non non lo insegnano al conservatorio a fare quelle cose con il violino. Ho attaccato un po' di pedalini, diciamo. Ho attaccato un po' di pedalini che modificano il suono, ecco, diciamo. Ah, in conservatorio non lo insegnano, anzi. Ecco, più vicino. Sì, ecco. Dicevo che appunto in conservatorio non lo insegnano, e anzi, fare una cosa così in conservatorio penso che pregiudicherebbe il corso degli studi. Però prima l'ho fatto. Ti buttano fuori. Beh, qui abbiamo avuto in studio ospite una cantante irlandese molto brava, fra l'altro, che studiava lirica un po' di anni fa, ma insomma non tantissimi, e l'hanno buttata fuori perché hanno scoperto che cantava in un gruppo pop. Questa ce l'ha raccontato qua in diretta, è stata una di quelle cose che non posso dimenticarmi, perché insomma mostrava una certa chiusura mentale. Invece è molto bello vedere uno strumento come il violino, che appunto è legato a un immaginario, diciamo, o classico, oppure purtroppo, diciamo, sanremese, cioè con queste sviolinate proprio, e che invece riesce ad avere una flessibilità d'uso molto molto interessante. Ma ogni singolo strumento può essere tanti strumenti, dipende appunto dall'utilizzo che se ne fa. Non è detto che si debba per forza usare uno strumento in maniera tradizionale, canonica, eccetera. È anche bello frequentare, scoprire delle dimensioni nuove in uno strumento. Sì, anche perché se dal vivo cercate di rifare delle canzoni che in studio avevano appunto la strumentazione di cui parlavo prima, insomma dovete un po' anche inventarvi qualcosa, non potete viaggiare con un autotreno di strumenti dietro. E anche questa è la differenza che c'è tra un disco e... Qualcuno mi fa presente, non siete molto lontani. Sì, è vero, però è vero che comunque un disco è un disco e il concerto è un'altra cosa, e quindi vive di una dimensione diversa, ed è giusto anche, molto interessante e stimolante reinventare per il concerto le canzoni. Quindi sostituendosi di ruoli o inventandosi di ruoli, l'importante è tutto funzionare per raggiungere quel risultato. Allora andiamo con un altro brano dall'album, si tratta di Il nostro fiero canto. Sul letto ed è già sera, il sole muore solo per noi, la musica santa nel tuo incarnato bagna le cose solo per noi. Tu con me, per sempre tu con me. Tu con me, per sempre tu con me, per sempre. Perduta nei nostri corpi scuote lo spazio accanto a noi, nel breve viaggio tra te e la mia vita consuma l'ultima luce per noi. Tu con me, per sempre tu con me. Tu con me, per sempre tu con me, per sempre. Che cosa è questa? potente tristezza che goccia a goccia cola da noi. Le nostre gambe di sangue di cedro sono padri profeti e madri di re. Tu con me, per sempre tu con me. Tu con me, per sempre tu. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Il nostro fiero canto è il titolo di questo brano, che non può non far venire in mente il titolo di una canzone di Battisti, cioè il nostro canto libero, non so. Non ci avevi pensato? No, non ci avevo pensato. Tra l'altro questa è un'altra licenza che mi sono presa su alcuni versi della poetessa Else Lasker-Skula, e il nostro fiorocanto è proprio il titolo di una sua lirica. E in questo album ci sono... Vedo antecedente Battisti, per cui... Sì, leggermente antecedente. E, nulla, per cui ci sono alcune canzoni di cui non sono l'autore del testo, ed è un lavoro che mi premeva molto fare, è molto interessante. Confrontarsi appunto con la vita e con le idee di altri. In questo caso appunto ci sono almeno tre casi in questo disco in cui appunto i testi non sono i miei, ma sono appunto di altrettanti, tre poetesse diverse. Evidentemente con il genere femminile un grande feeling. Beh, mi pare giusto. Questo mi fa venire in mente una cosa, perché chiaramente qui hai musicato dei testi, sì, preesistenti. Nelle tue canzoni, siccome sei anche uno scrittore, nasce prima il testo o la musica, o non c'è una regola? Dunque, per me una canzone è tale quando nascono insieme le cose, cioè hai uno spunto, un'idea che vuole essere musicale in forma embrionale e con altrettanta intuizione e così, fluidità nasce anche l'aspetto essenziale del testo, a volte integralmente, a volte lo spunto sul quale poi si fa un'elaborazione, però l'idea nasce insieme. Questa per me è la canzone. Non credo molto, personalmente non credo molto alle canzoni costruite, a meno che non ci sia un lavoro come quello che io ho cercato di fare su un testo di altro, però allora il testo che ti traduce e ti dà, ti evoca una sensazione sonora, ma allora appunto è per questo che faccio così, faccio comunque anche un'elaborazione dello stesso testo, perché è la possibilità per me di entrare in questo mondo e cercare di fondere i due aspetti. Bene. Sì, a proposito allora di testi non miei, Adesso suoniamo un brano appunto il cui testo è, diciamo, sono alcuni frammenti e alcuni spunti di diverse liriche di questa poetessa che si chiama Else Lasker-Skula. Per questo il titolo di questo brano è Else Lied. Vuole suonare come un lied, come una cantata, come un canto che originariamente è soltanto lirico ma senza musica. La musica bisogna pensarla, bisogna evocarla. E in questo caso l'abbiamo musicata così. Else Lied. Thank you. meravigliosa versione di questa Else Lied in tedesco, uno vedendo il titolo potrebbe equivocare e pensare a Else Lied, visto che di solito l'inglese è più usato nel mondo della musica. Voi siete qui, diciamo, di passaggio per Padova, perché state facendo questo tour, come si chiama, promozionale, giusto? Per presentare l'album e per presentare anche la tournée vera e propria. Facciamo anche un po' di pubblicità, insomma, mi pare giusto. Dicevi che dovreste cominciare a gennaio con i concerti. Sì, quella che stiamo facendo adesso è appunto il tour promozionale, che come si sente cerchiamo di farlo suonato. Quindi concentrandoci proprio sul suono. E poi successivamente, da gennaio in avanti e fino alla primavera, ci saranno i concerti nei club e in tutti i posti dove sarà possibile eseguire il concerto con la formazione più possibile estesa. Poi l'estate. Questo è un disco, a differenza di Falene, il disco precedente, questo è un disco che vuole essere suonato dal vivo, a diretto contatto con la gente, perché è un disco molto più animale, nel senso profondo del termine. È un disco in cui c'è insieme appunto la sostanza fisica e la sostanza appunto d'anima, e quindi questo richiede il contatto, richiede lo scambio, richiede il confronto, e non c'è niente di meglio che suonare dal vivo quello che hai composto, perché è una verifica immediata, infallibile, di quello che fai, delle tue capacità, delle tue evoluzioni, se ci sono dei tuoi limiti soprattutto, che la cosa più importante da registrare continuamente è un proprio taccuino, un segreto, questo non va bene, bisogna correggerlo. Diciamo, nei concerti ci saranno loro, immagino. Sì, questa è la formazione. Avete passato l'audizione, perfetto. Questa è la formazione, in più si aggiunge un batterista e una corista. E Stefano sarà violinista e chitarrista. Quindi insieme, battezzato lì sul posto, sul campo. Promosso. Bene, quindi una formazione ricca, ecco, che sì, permetterà di avere un ulteriore arricchimento del suono, che già così, insomma, rispetto soprattutto a quello che siamo abituati qui in studio, come vi dicevo, insomma, di solito i musicisti si accontentano, ecco, della versione acustica, ma chiaramente una strumentazione più ricca è sempre un'emozione diversa. Poi essere qui in mezzo a voi, devo dire, mi spiace, gli ascoltatori magari possono vedere sul webcast le telecamere, però ecco, essere in mezzo ai musicisti mentre suonano è sempre un'emozione molto particolare per chi come me ama la musica. Non è una cosa che mi capiti tutti i giorni, ma insomma è appunto una cosa di cui volevo anche ringraziarvi personalmente. Oh, grazie a voi. Tra l'altro, i concerti sarebbe bello farli anche nelle case, bisognerebbe entrare nelle case, piazzarsi nel salotto e suonare. Ci sono dei musicisti che offrono appunto anche questa possibilità, e il problema è che poche persone hanno la casa adeguata, e io tante volte ci avevo anche pensato, però ho dei vicini, diciamo, che potrebbe creare, diciamo, qualche piccolo inconveniente. E ci suonate un altro pezzo dal vivo adesso? Sì, facciamo un altro brano da Sangue Bianco, una ballata alla quale sono molto legato, e si intitola Un ragazzo speciale. È dedicata a qualcuno in particolare la canzone? Non è dedicata a qualcuno in particolare, è dedicata a un concetto che mi sta molto a cuore, cioè quello del fatto che non esistono generi sessuali, non esiste soltanto maschio e soltanto femmina, esiste, credo, una gradazione di possibilità che hanno come unica caratteristica importante tutti la sensibilità. Accorgersi della sensibilità individuale è più importante che fare una discriminazione tra ciò che è maschio e ciò che è femmina. Questa è la storia di una persona speciale, senza un'identificazione sessuale precisa, la cui bellezza sfugge alle nostre categorie così un po' manichee, un po' troppo scontate e violente, e la cui bellezza viene scoperta purtroppo quando è troppo tardi. Però forse appunto accorgersi della bellezza come sensibilità è più importante, ed è un dato sul quale riflettere se vogliamo migliorare il mondo che ci sta attorno. Un ragazzo speciale. si alza silenziosa al verso sera. Nessuno che raccolga la sua fragile bellezza, la luna raccarezza le ginocchia, le cambia sesso e rende luminosa anche lei. E mentre cade giù e danza nell'eternità, per noi il male siamo noi. Guardate adesso che c'è ancora tempo di dire quanto è densa la sua ultima bellezza e come somma infine trasformata. Le gare che volevano essere altre su di lei, il male non c'è più, il male non esiste più. Questa era Un ragazzo speciale qui dal vivo su Blu Radio Veneto nel nostro studio con Onorato e la sua band. E, per preparare questa trasmissione ho fatto anche un po' di giri nel passato, diciamo, perché la tua carriera di musicista è importante, è una carriera molto lunga ormai, è iniziata in un periodo che, insomma, sono abbastanza anziano per ricordarvelo com'era, fu di grande eccitazione perché anche in Italia avevamo, dopo, diciamo, l'epopea del beat, poi ci fu l'epoca del progressive, eccetera, ma quando all'estero scoppiò anche la new wave, vedere che in Italia c'era qualcuno che riusciva a fare dei prodotti di buona qualità, mi ricordo, per noi era così, un motivo di orgoglio, non nazionalista, ma insomma il fatto che non bisognasse necessariamente essere nati altrove per essere in grado di fare la musica, diciamo, che era attuale in quel momento. E ho rivisto adesso su YouTube, lo dico anche per i nostri ascoltatori, hanno messo diversi video, pseudo video, insomma, comunque è possibile ascoltare le canzoni degli Underground Life. E la prima annotazione che mi è venuta in mente ascoltandole adesso è che magari, diciamo, 6-7 anni fa avrei detto che suonavano datate, adesso sono attualissime, perché metà dei gruppi che vanno di moda adesso suonano quasi come suonavate voi all'epoca. Che impressione ti fa? Non so se segui varie band dell'ultima ondata inglese americana, ma hanno recuperato queste sonorità in maniera veramente massiccia. Sì, succede spesso, no, che ci siano questi ritorni, ma non so dirti che effetto mi faccia, perché in realtà io ho una visione della musica molto progressista, voglio guardare molto avanti. Va detto però che quell'esperienza è stata un'esperienza molto formativa, è stata una palestra strepitosa per me, io ero un ragazzino, io e i miei compagni eravamo veramente dei ragazzini, e quindi è stata anche un po' la storia della mia adolescenza, e bene, come hai detto tu, era anche la liberazione da certi canoni un po' troppo stretti, troppo oppressivi che avevamo in Italia rispetto alla musica, la grande ventata del punk e poi della new wave, ma soprattutto appunto direi del punk inteso non come per forza come stile sguaiato, sgrammaticato, ma proprio come liberazione da certe grammatiche, per esempio, è stata una ventata di grande creatività. Io vengo da quel tipo di mondo, però appunto è sperabile che nella vita si vada avanti, quindi quando si sente appunto... Io credo che quelli che oggi cercano di riprendere quello che è stato fatto negli anni 80 più o meno non fanno altro che così in qualche modo aderire alle tendenze che spesso, alle fluttuazioni che spesso ci sono nella musica, ma poi in tutte le storie del pensiero ci sono dei corsi e ricorsi, ci sono tendenze, poi si torna, si va un po' avanti, si dice no, adesso si fa così, e poi invece si dice no, avevano ragione quelli che facevano in quell'altro modo. Questo c'entra poco con la musica, credo, ovvero senza nulla togliere, ci sono sicuramente formazioni molto valide, però vorrei dire che la musica non ha bisogno di etichette, non ha bisogno di classificazioni, non ha bisogno di generi. Canto tibetano, la dodecafonia, la musica contemporanea, la musica concreta, la musica pop, eccetera, è la benvenuta, credo, nella vita di chiunque, purché sia buona musica, che sia fatta bene. Allora non ci sono delle differenze. Io sono lusingato dell'attenzione che c'è ancora riguardo a quello che facevo quando ero un bimbino, un bimbettino. Però oggi sono una persona che vuole andare avanti, vuole maturare, vuole crescere, e lo faccio concentrandomi il più possibile su quello che oggi è il mio presente. Poi credo che non si possa offrire che il proprio presente agli altri. Il passato non esiste più, il futuro deve ancora arrivare. Però ecco, questa è una cosa. Il passato non esiste più nel caso di un musicista ha un valore un po' diverso, nel senso che io, diciamo, di quello che facevo negli anni 80 posso avere delle fotografie, magari penso che ero pettinato in una maniera che adesso troverei abbastanza sconveniente, o che avevo, non so, un look che adesso mi sembra ridicolo. Non sono stato così strano. Però un musicista ha comunque lasciato un qualcosa che resta, cioè hai espresso quello che eri in quegli anni in maniera che può essere rivista, ripercorsa da, diciamo, da chiunque adesso. Che effetto ti fa quel ragazzino, se lo senti adesso, ti lo guardi con tenerezza? Molta tenerezza e anche orgoglio, perché sono state fatte delle cose. Noi abbiamo avuto, cioè, quando dico noi intendo gli Underground Life UL, hanno avuto, credo, soltanto un grande merito, quello di essere davvero pionieri, di essere autori di un suono nuovo, di un approccio, più che di un suono nuovo, più un approccio nuovo alla musica. Facevamo musica d'autore quando i cantautori suonavano ancora ballate, cioè suonavano ormai delle ballate molto stucchevoli. Facevamo una fusione tra la musica e alcuni richiami narrativi, letterari, poetici. Facevamo degli spettacoli che erano anche una sinergia tra diverse discipline, nella musica, la danza, le arti figurative, il video. Quindi eravamo dei ragazzini, ma anche molto, molto attenti. Sì, molto... devo dire, è abbastanza stupefacente anche, diciamo, la qualità artistica dei dischi riascoltati adesso è perfettamente paragonabile a quella delle coeve produzioni straniere. Adesso, siccome parlo molto con musicisti anche che vengono qua, sappiamo che nell'epoca di internet, dell'intercomunicazione, eccetera, tutto sommato, e anche degli studi a costi abbordabili. Tutto sommato, fare un disco in maniera seria, professionale, non dico sia alla portata di chiunque, ma è decisamente più facile rispetto a quegli anni. Cioè, per voi deve essere stato un impegno, e anche non so come ci siete riusciti alla fine. Non lo so, è stata una lotta immane contro tutti. Non lo so, perché sai, quando se ti dicono adesso ti portiamo in mezzo all'oceano, tu non sai nuotare, ma ti lasciamo lì e devi raggiungere terra per salvarti in qualche modo, tenti. Abbiamo fatto delle cose molto di sopra i nostri mezzi e francamente a distanza di anni non saprei dirti come, perché una volta fare i dischi voleva dire spendere molti soldi, impegnare molto proprio tempo, quello che intendevo, costava tutto moltissimo e soprattutto i canali erano pochissimi, i canali di diffusione, quindi sì, c'era tutto questo contro cui combattere, ma in realtà io sono qui oggi, stanotte, con i miei compagni di avventura e con te, proprio perché c'è quell'esperienza, altrimenti mi sarei esaurito prima. Mi ha fatto grande, oltre che grande scuola, mi ha fatto anche grande scuola di vita, oltre che di pensiero musicale, è stata anche un grande insegnamento, cioè che se vuoi veramente qualche cosa, sei disposto davvero a spendere qualcosa di te, puoi farcela. Okay. Ribadisco il fatto che foste così giovani, era più, sì, è chiaro, quando sei giovane si è, come hai detto tu, ti butti in acqua e vedi se riesci a studiare a nuotare, però è anche facile, cioè, abbiamo avuto tanti esempi, insomma, da voi, dalla scuola, immagino siete finiti a fare tour in giro per l'Italia. Sì, io espulso dalla scuola direttamente, mi hanno mandato via e quindi mi sono trovato, avevo già fatto un disco, ma la commissione design mi ha detto: guardi che lei non può fare musica se non ci dice questo e quest'altro, e siccome io ero abbastanza ribelle, ci fu un diverbio, quindi mi allontanarono e da quel momento non ho più messo piede in una scuola. È un po' strano, perché penso che nelle materie letterarie te la dovessi cavare abbastanza bene così a naso. Sì, ma la mia scuola sono stati libri che ho studiato per i fatti miei lontano dalla scuola, per carità, vengo da una famiglia di insegnanti, quindi grande benedizione per la scuola, però non facevo... Chissà la gioia dei tuoi genitori quando hanno saputo dell'espulsione, non voglio neanche immaginarla. Comunque sì, espulso dalla scuola eravamo già dentro a fare... eravamo nel 79 e poi chiudiamo questa... Si può dire perché sono le 23:33. E eravamo già in vetrina a Rough Trade a Londra come Italian Punk Rock. Se mi ricordo questa cosa, sì, dicevo appunto, siete stati anche molto maturi per non farvi diciamo rovinare, nel senso, in tutti i sensi, perché poteva capitare, insomma, quando si comincia a quell'età a girare nei club rock sappiamo bene, insomma, che le tentazioni sono molte e è difficile resistere quando si è così giovani. Ci ascoltiamo adesso un altro brano del disco, si intitola Io ti battezzo. Blu Radio Veneto, bello come non l'hai mai sentito. Io ti battezzo nel nome del tuo siero, del graffio sulla schiena, del tuo buco santo. Ti prego, torna ancora, ritorna, ti prego torna a messa come l'arcangelo, come l'arcangelo ti parlo. Ascolta, inclina la mia volta, la nostra macoraba, dove puoi ricordare di due facemmo uno. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Allora, questo brano si intitola Io ti battezzo e vi ricordo fa sempre, è sempre estratto dall'ultimo album di Giancarlo Onorato, a nome soltanto Onorato, Sangue Bianco. Bianco anche esteticamente molto elegante la copertina, devo dire, la forma grafica. No, hai fatto tu anche questa per caso? No, questa è l'opera, ecco, questa è una cosa che non diciamo spesso, questa è l'opera di Gino D'Urso, che è un grafico, un creativo che mi segue da qualche tempo, su anche la copertina di Falene. E la scelta di togliere tutto, senz'altro una scelta mia, però bisognava poi esserci comunque con... quando si fa un disco comunque si offre qualche cosa che c'è fisicamente. Allora, togliendo tutto, andando per sottrazione, era importante comunque che questo poco, il poco che ti rimanesse in mano, comunque avesse una sua sostanza, una sua consistenza. E questo è anche utile perché permette, invoglia, credo, invita a concentrarsi maggiormente sul contenuto, su quello che c'è, sulla musica, no? E invece delle confezioni di un disco, delle copertine particolarmente ricercate, eccetera, possono in qualche modo distogliere. Invece credo che questo sia Sangue Bianco credo che sia il mio disco più diretto, ma anche il più essenziale, nel senso proprio del termine, cioè proprio la ricerca dell'essenza e quindi anche dell'essenzialità, quindi privo di orpelli, privo di fronzoli, il più possibile alla sostanza. Sì. Posso fare una notazione molto così terra a terra, da persona che porta i dischi in radio, la confezione incartonata è sempre molto apprezzata, perché se cade non si rompe, invece quelli di plastica. Però hai detto, si parlava appunto, parlando di disco, hai detto hai in mano una cosa fisicamente. Sappiamo che però adesso il mercato discografico è in buona parte puntato a vendere un qualcosa che fisicamente non esiste, cioè dei file. Qual è il tuo atteggiamento? Perché tu sei partito col vinile, che era fisicamente proprio una cosa più, come dire, più emozionante, no? Anche dal punto di vista della copertina, per voi che avevate questo amore per la grafica, una cura particolare, le dimensioni del vinile diciamo davano anche maggior sfogo, e poi si è scesi col CD, adesso siamo all'evanescenza, non so neanche come definirla, all'idea, si rende quasi l'idea. Beh, dunque, va detto che la storia della musica filtrata e deformata attraverso il mercato, quindi che ha imposto a un certo punto la produzione di dischi in un certo modo, poi è stata anche la storia appunto di una grande alterazione delle idee. È vero che una volta i dischi erano... esistevano fisicamente, eccetera, ma va detto che sono comunque stati non molti i dischi fatti con la giusta attenzione per l'opera, eccetera. Siamo andati incontro a una mercificazione talmente fitta del progetto musicale da svilirlo comunque totalmente. L'arrivo del CD, che ormai è cosa consolidata, appunto già addirittura quasi superata, sembrava avere ridotto le possibilità di intervento grafico. Non so quanto sia vero, quello che è vero è che se adesso il CD sparisce come supporto e diventa soltanto, la musica diventa un fatto puro virtuale, abbiamo un ritorno alle origini. Quindi se questo può incentivare, incrementare la produzione di musica dal vivo, l'ascolto, la fruizione di musica dal vivo, quindi tornare a quella che è la sostanza, la natura della musica, ci siamo, credo che posso anche essere d'accordo. L'unico problema che sfugge a questo ragionamento è il fatto che un disco vuole anche essere un'opera compiuta, vuole essere un sigillato di un progetto artistico che vuole arrivare così, quindi ascoltare soltanto una canzone di un disco non è come ascoltare il disco nella sua integrità, con la sua scaletta, con tutte le scansioni che chi l'ha pensato vuole metterci. Il mercato dei dischi come dei concerti lo fanno una serie di azioni. Io posso soltanto operare nella direzione di metterci tutto l'impegno perché questa sia sempre un'operazione sensata e seria. Dopodiché, se poi il destino della musica è quello di scomparire, i dischi, scusate, scomparire, mi auguro, come dicevo poc'anzi, che questa scomparsa della fisicità del disco si compensi con il ritorno all'attenzione per la musica, perché recentemente, tuttora, c'è una tale atomizzazione delle proposte per cui si perde l'attenzione per il progetto, troppe cose, grandissima espansione di tutto e si perde la concentrazione. Una volta il disco diventava un evento, l'ascolto di un disco diventava un evento, quindi tu lo fruivi davvero, lo esaminavi davvero, lo consumavi davvero e poi lo conoscevi. Invece quello da cui dobbiamo guardarci, appunto, non è forse l'evanescenza del dato fisico, dell'oggetto fisico, ma l'evanescenza appunto della diffusione delle idee, e che credo siano tutto ciò che vada fortemente tutelato e preservato come qualcosa che non si deve estinguere. Bene, direi che siamo perfettamente d'accordo. Lo spazio che noi cerchiamo di dare alla musica dal vivo direi che è già la risposta importante su quello che... Poi io sono un po', come dire, un tradizionalista sono diventato, perché anche qui in radio preferisco mettere su il CD e presentarlo avendo in mano la copertina, piuttosto che mettere sull'MP3, che è più comodo per ragioni, diciamo, di maneggevolezza, di trasporto, eccetera. Però quando ho in mano la copertina, non so, mi sembra di avere un qualcosa in più da offrire anche all'ascoltatore, che poi in realtà non è così, è solo una mia impressione. Però è un'abitudine forse anche che ho, ed è il fatto che la copertina fa parte del... A volte racconto agli ascoltatori com'è la copertina del disco, perché a volte appunto dico è un peccato che voi non vediate la copertina di questo disco, perché è evidente che contribuisce alla fruizione del progetto e fa parte di tutto un pensiero che ha avuto il musicista. Direi che nel tuo caso la cosa sia perfettamente consona a questo ragionamento. Non sarebbe la stessa cosa, questo disco non sarebbe esattamente la stessa cosa se non ci fosse una forma che lo raccoglie e quindi lo presenta, lo sigilla lo ferma in quella forma lì, per cui è identificabile. Ma mi viene soltanto un breve parallelo con i libri, ad esempio. Anche sui libri si sta tentando di andare il più possibile verso la forma virtuale, però io credo che un libro, siccome è qualcosa che si fruisce in maniera personale, singola, con se stessi soltanto, il rapporto fisico con la pagina e anche la lettura di qualcosa di stampato è molto diverso da qualcosa che si legge in formato digitale. Quindi è verissimo che stanno cambiando rapidamente molte cose, però credo che ognuno di noi debba un po' misurarle con quella che è la propria, il proprio rapporto diretto con il mondo. Gli oggetti dicono molto di noi e guai a perderne la frequentazione. Bene, andiamo con un'altra canzone, un altro brano dal vivo. Noi vorremmo chiudere con un brano dal vivo. Ok, allora adesso ci ascoltiamo un brano dal disco precedente, Falene. E, il pezzo che hai scelto proprio tu è la ballata dell'estate sfinita, con la S. E, prima hai detto che questo è un disco più da ascoltare, diciamo, come disco, non è stato pensato come progetto da poi eseguire dal vivo, quindi è una cosa abbastanza diversa rispetto a Sangue Bianco. A distanza di anni, cosa pensi di questo disco? Pensi di aver raggiunto esattamente, cioè rivedendolo, riascoltandolo, sei perfettamente soddisfatto di quello che avevi fatto? Sì, soddisfatto sì. È stato un disco anche quello molto importante per me. Mi ha dato una grande struttura, mi ha strutturato molto, mi ha definito molto. È stato anche un importantissimo biglietto da visita per un pubblico tanto più vasto. Sì, anche quello è stato un disco fatto con molta cura, molto tempo e moltissimi musicisti, molte collaborazioni. È diverso, e col passare degli anni, quando ti confronti con quello che hai fatto prima, è bello riscoprire delle cose che sono state fatte, ma è anche molto bello sentire che oggi sei intanto una persona ancora diversa e che qualcosa la faresti, qualcosa non la faresti più in quel modo, no? Questo è senz'altro molto interessante, molto stimolante. Forse sarebbe triste il contrario. Perché vorrebbe dire che non hai più sviluppo, diciamo. Cioè, sì, dici, certo. Farei tutto uguale, un po'. Allora ci ascoltiamo questo pezzo, la ballata dell'estate sfinita da Falene. Ti domando di getto, e tu chi sei? Quale fiore sbocciato sul mio campo segreto? Primavera di carni nel passo che hai. Mi domando perché dovrei stare con te. Hai una luce di fiamma, ma non mi avrai. Un bagliore di luna, ma non fai per me. Mi domando perché dovrei stare con te. E perché mai, e perché mai tu siamo la somma dei nostri errori, e così vedo i semi di latte che hai come frutti di rovo nella sera sfinita. Mi domando perché voglio stare con te. E perché mai, e perché mai giochi di luce tra le erbe bagnate, siamo il canto di carne che parla di noi, la canzone lontana che ritorna per farsi cantare da noi. Ma poi scende la notte, sorella crudele, e ti chiudo la vita come un fiore annegato, e il tuo collo è di ghiaccio e il respiro non c'è. Mi domando perché sono stato con te. Tornerà anche l'estate, certamente verrà. Sarà un campo fiorito, il ricordo di te. Sarà questo silenzio di peccato infinito. Chiederanno perché, tanto male perché, e perché mai, e perché mai. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Allora, abbiamo ascoltato anche un brano da Falene. Siamo quasi alla fine di questo appuntamento con Rock Wave, questi appuntamenti con la musica dal vivo che sono sempre il momento più bello per me, penso anche per chi è all'ascolto, perché ormai, come dicevi tu, la musica è dappertutto. Uno vuole ascoltare una canzone, la cerca su internet e la trova, ma un musicista, dei musicisti che si esibiscono dal vivo sono ogni volta un piccolo avvenimento, insomma è un qualcosa che bene o male ha un qualcosa di irripetibile. E, prima appunto di chiudere con un'ultima canzone dal vivo, volevo farti un'ultima domanda. A volte si chiede ai musicisti i tuoi 5 dischi preferiti di Isola Deserta, queste cose qua, oppure le tue ispirazioni eccetera. Io ti chiedo una cosa leggermente diversa. A uno che ti dice: ah, mi è piaciuto molto il tuo disco, tu gli potresti dire: beh, allora dovresti ascoltare anche... No, non te la senti, no? Non dico che deve essere sullo stesso genere, ma qualcosa che... Dovrebbe leggere Kierkegaard. Questa è un po' più complicata come cosa. No, non mi viene in mente. Prima di tutto perché la domanda mi si paralizza il cervello ogni volta che si deve fare un confronto con altri, eccetera. Ci sono molte cose che mi piacciono al cinema e in musica, però faccio molta fatica a individuarle, perché qualunque cosa dicessi poi mi sembrerebbe di penalizzare altro che magari altrettanto se non di più per me. Direi che ci sono... nella mia musica non esistono più scientemente delle influenze di altro. Credo di averle pagate nel corso del tempo, di averle un po' sgravate, però esiste influenza di tutto quello che ci circonda, quindi il riferimento è la propria vita, cioè siate il più possibile voi stessi, concentratevi il più possibile su quello che avete da dire, da quello che avete da raccogliere e da dare agli altri, e quello è l'unico confronto che ci possa essere con quello che cerco di fare io, perché io cerco di confrontarmi il più possibile con me stesso e col resto del mondo. Hai detto che ti piace molto il cinema, dobbiamo aspettarci anche una carriera di regista prossimamente? Già oggi mi hanno ventilato altre. sarebbe veramente... Non so se mi fanno un prestito di vita, posso avere una proroga, non lo so. Il cinema mi piace moltissimo, mi piacerebbe la musica al cinema, questo sì. Va bene, magari c'è qualcuno, qualche regista in ascolto. Allora, sono le 23:55 minuti, purtroppo dobbiamo chiudere questo appuntamento con Rock Wave. Naturalmente ringrazio onorato e i musicisti qui presenti. Ringrazio Alberto Prisco che ha collaborato, diciamo, alla nascita di questo evento. Ringrazio naturalmente Agostino alla regia, come al solito inappuntabile. E l'ultimo pezzo si intitola? Sì, l'ultimo pezzo è anche l'ultimo del disco ed è uno di quei momenti. Riprende il tema che dicevo all'inizio, cioè della partire alla ricerca delle proprie origini, a partire dalla propria fisicità, dal rapporto con se stessi, con la propria carne, e immaginarsi protesi e sporti verso la totalità, tutto quello che può essere moltiplicazione di noi, dei nostri geni, delle nostre idee. E quindi è un confronto con il proprio spazio interiore, ma nello stesso tempo anche lo spazio reale che ci circonda fuori noi, fuori dal nostro pianeta. Noi non lo vediamo, sappiamo che esiste, sappiamo che probabilmente veniamo da lì e che lì torneremo. Questo è Regine Bambine. E su questo brano, diciamo subito, poi la trasmissione si chiude, quindi grazie ancora per essere stati con noi, grazie ai nostri ascoltatori naturalmente, e speriamo di rivederci per il prossimo disco, magari non nel 2016, promesso che stavolta ci farà aspettare meno. Grazie ancora di essere stati con noi. Grazie e buonanotte. Adulce retorno, ciascuna una cosa.